Io sono un ex detenuto, lavoro con il progetto, però devo dire anche una cosa, che comunque io sono stato fortunato, dico fortunato perché io ho avuto la possibilità, sono stato latitante per diversi anni all'estero e nella mia ricerca interiore, perché non avevo più, nemmeno più voglia di combinare tutti i casini che ho fatto in giro per il mondo, ho avuto la possibilità di incontrare il buddismo, quindi ho avuto, sono stato fortunato in confronto ad altri che sono entrati, stati presi, messi lì. Io ho avuto questa grande fortuna di prepararmi. Quello che io comunque quando incontro ragazzi che escono, gli dico sempre. Perché sono alcuni ragazzi che escono e devono rientrare perché devono arrivare, deve arrivare l'altro effetto del karma che hanno creato. E quindi io cioè, gli dico sempre quando vengono qui di prepararsi a livello di meditazione, almeno quella. Perché dentro è difficile, dentro è dura. Poi se hai provato, io ho avuto la fortuna di provare carceri bruttissimi, quindi di arrivare dentro come buddista e mi sono consegnato e ho meditato per 4 anni e mezzo, ho fatto un bel ritiro. E quindi per me non è stato difficile, perché ho avuto la possibilità dopo 2 anni di detenzione di trovare, di incontrare il progetto che era appena partito, era appena arrivato in Italia, e quindi ho avuto la possibilità di studiare, di meditare, di imparare lo yoga, di praticare yoga dentro la cella, e poi di coinvolgere anche gli altri detenuti. Da lì, che posso dire? Io adesso sono qui, ho finito l'anno scorso. Fuori mi sono ritrovato il primo mese che sono uscito, i primi 2 mesi sono stati terribili perché ho iniziato a lavorare e poi ho chiuso cantieri, tutti disoccupati. Per me era facilissimo poter rifare quello che facevo bene. Però non era la strada che dovevo fare, perché io ho preso un altro sentiero e questo sentiero a me mi ha dato una mano enorme. Quindi ho dovuto lottare, fare il bravo, meditare. Un giorno mi sono ritrovato davanti alla mia mamma e ho detto: ma io stavo meglio dentro, cioè mi mancava nulla, meditavo, mi allenavo, facevo tutto. Però quella lì ti dai la forza, perché quando sei fuori hai 2000 muri davanti e se non c'è lavoro è ancora peggio. Quindi devi stare dietro, devi allontanarti dalle vecchie amicizie che sono sempre lì dietro l'angolo. Devi allontanarti e niente, devi lavorare su te stesso continuamente. Poi l'ho avuto, comunque sono troppo fortunato. Sono venuto qui a Pomaia. Cioè, io non faccio contesto alla fine. Sono venuto qui a Pomaia che ho trovato delle splendide persone che mi hanno accolto. Io ho dato tutto quello che sapevo fare, l'ho messo a disposizione del monastero. Il monastero mi ha fatto fare quello che volevo. È andata bene. E niente, basta. Adesso spero solamente di poter portare comunque, di poter dare ad esempio ai ragazzi che sono in carcere, perché quasi il 100% delle persone che sono lì comunque sono demoralizzate. Alcune invece lo usano come scusante per poter rifare gli stessi danni. Altri invece sono deboli. Altri non vengono capiti e allora non partono nemmeno. Quindi io metterò tutta la mia disposizione, costa di viaggiare, andare a parlare con chiunque. E niente, non so più che dire. Ci tengo a dire che tra l'altro Ignazio è il gestore della nostra pagina Facebook del progetto, lo fa molto bene, qui in istituto sta lasciando opere architettoniche, ad esempio la ruota di preghiera, quindi veramente è una persona che sta dando tantissimo, gestirà, co-gestirà il sito del progetto ed è una persona sulla quale davvero vogliamo investire un po', perché lui ha investito tanto su di noi e quindi tanto vale, perché poi il progetto sono loro, non siamo noi sostanzialmente, senza di loro il progetto non esiste, perché siamo noi a servizio loro in qualche modo, quindi insomma grazie. Una bella testimonianza.